Hanno lasciato il paese in 5 anni, riferisce l'Istat nel rapporto annuale. Aumentano le famiglie senza reddito, nuovo minimo storico per le nascite nel 2013. In Europa si continua a trattare sulla Commissione europea. L'Italia vuole posti chiave. Grillo e Salvini si incontrano sull'aereo per Bruxelles. Il primo vedrà Farage, il secondo a pranzo con la Le Pen. Intanto nel Movimento 5 Stelle si dibatte sul calo di consensi, Pizzarotti parla di una necessità di autocritica, ospite tra poco ad Effetto Giorno il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. È atterrato questa mattina, tra momenti di grande commozione, l'aereo con i 31 bambini congolesi adottati da famiglie italiane. Appena si veniva eletti si entrava nel sistema, a parlare il boss della Camorra Antonio Iovine in un interrogatorio, c'erano soldi per tutti, aggiunge, anche per i sindaci. Dopo la condanna di un anno fa scade oggi il termine imposto dalla Corte di Strasburgo per mettere mano al sovraffollamento delle carceri. Ha parlato pochi istanti fa il ministro Orlando, che dice sostanzialmente no a provvedimenti di clemenza. Cellino ha venduto, il Cagliari sarà di proprietà di un gruppo americano che chiede rassicurazioni, interessato tanto al club quanto allo stadio. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre, se volete le potete commentare al 349-238-6666, scrivendomi su Twitter, mi trovate Simone Spezia, sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e per completare il quadro anche l'email effettogiorno@radio24.it. Iniziamo dall'Istat. La recessione sembra essere alle spalle, ma l'Italia stenta a ripartire e ad agganciare la ripresa, nonostante qualche timido segnale positivo, specie sul fronte dei consumi. È l'immagine di un paese ancora in difficoltà, quella che esce dall'ultimo rapporto dell'Istat. La mancanza di lavoro si conferma come il primo problema, soprattutto fra i giovani e al mezzogiorno. Nel complesso sono quasi 3 milioni le famiglie italiane in difficoltà, nelle quali nessun componente ha un'occupazione. Sono invece 2 milioni e 300 mila quelle nelle quali a lavorare soltanto una donna. Dall'inizio della crisi il numero dei disoccupati è raddoppiato e nel 2013 ha superato quota 3 milioni e 100 mila. In 5 anni sono stati bruciati 1 milione e 800 mila posti di lavoro fra gli under 35, che persa la fiducia nei canali tradizionali. In 8 casi su 10 cercano un'occupazione solo tramite conoscenze. Negli ultimi 5 anni quasi 100 mila giovani hanno lasciato l'Italia in cerca di nuove opportunità. Secondo l'Istat, la crisi ha anche frenato gli arrivi di immigrati e ha fatto aumentare il numero degli stranieri che vanno via. La prolungata recessione sembra aver scoraggiato anche le nascite. Nel 2013 si è toccato un nuovo minimo storico con poco meno di 515.000 neonati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed è con questo quadro naturalmente che deve fare i conti l'esecutivo, con l'occhio ovviamente maggiormente sulle questioni economiche che si intrecciano naturalmente con quelle europee. Sta parlando in questi minuti il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta per capire che cosa sta dicendo soprattutto sulla nostra azione in Europa e anche sulla TASI. Vincenzo. Sì, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. Tassazione sugli immobili e strategie economico-europee al centro delle parole questa mattina del ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Partiamo allora dalla TASI. Per i comuni che non hanno deliberato l'aliquota sulla tassa sui servizi indivisibili, spiega il ministro, optando per la proroga, ci sarà un'anticipazione temporanea da parte dello Stato nell'ambito delle risorse disponibili. Padoan ha poi aggiunto che il decreto per il rinvio del pagamento arriverà nei prossimi giorni. Sul fronte europeo poi ho ricevuto molte congratulazioni e molte aperture alle proposte dell'Italia per mettere al centro crescita e occupazione con misure innovative, ha detto Padoan, e con una riconsiderazione del quadro generale. Il ministro poi ha promesso sul fronte della disoccupazione, questa è una priorità per l'esecutivo Renzi, arriveranno nuovi posti con nuove misure. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. L'Europa, si diceva, i leader e i vari paesi sono in trattativa naturalmente sulla composizione della Commissione. È ecco il matador, avrebbe detto la cancelliera andando incontro a Renzi. Alla Merkel è sempre andato a genio, Matteo, ma questa volta forse Angela non ha messo in conto che il premier è arrivato a Bruxelles con il miglior risultato ottenuto tra i leader. Chi ci ha votato chiede un cambiamento, dice Renzi. Abbiamo fermato il populismo, ma siamo i primi a voler cambiare l'Europa. Alla vigilia del semestre italiano, il premier ha intenzione di guadagnare tutto lo spazio possibile. Renzi vuole sì un'Europa più forte e dunque in netta contrapposizione con l'inglese Cameron, che dopo la batosta presa in casa dagli euroscettici chiede che molti poteri tornino ai governi nazionali, ma la vuole meno ingessata e austera di come la vedono per esempio in Germania. Ed ecco la stoccata sul patto di stabilità. Nel rispetto degli accordi si valuti se le spese per le scuole, per le reti tecnologiche, per la ricerca possano restarne fuori. Dunque lo stallo sul nome del prossimo presidente della Commissione nasconde nei fatti l'incertezza sulla direzione da prendere. Juncker è il nostro candidato di punta, ha ripetuto la Merkel, ma bisognerà trovare ampie maggioranze. E sul tavolo, oltre al nome di Juncker, avversato da Cameron e non proprio nelle corde di Hollande, ci sono i nomi del socialista Schulz e di Verhofstadt, candidato degli euroliberali. Ma è possibile che i mandati esplorativi non portino a risultati fino a luglio. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E nel frattempo a Bruxelles e anche sui cieli, per così dire, strani incroci, perché questa mattina si sono trovati sullo stesso aereo Beppe Grillo e Matteo Salvini. Il primo va ad incontrare a pranzo Farage, il secondo va ad incontrare Marine Le Pen. Un punto con Enrico Brivio proprio da Bruxelles. Buongiorno Enrico. Buongiorno, sì, hai detto molto bene, ci sono movimenti, grandi manovre sul fronte degli euroscettici che dimostrano però come non ci sia un'unità, ovvero quel oltre 25% preso dagli euroscettici in questa tornata elettorale è comunque destinato a essere frammentato. Perché? Perché da un lato avremo il raggruppamento di Marine Le Pen, che incontrerà appunto oggi Salvini e poi terrà una conferenza stampa verso le 4:30, che è già alleata con il partito olandese, Vlaams Belang Fiammingo Belga, il partito austriaco, mentre invece ha smentito possibilità di alleanza con Alba Dorada Greca, quindi diciamo un raggruppamento euroscettico duro ma che non vuole sconfinare nel neonazismo. D'altro canto invece c'è quest'altro raggruppamento, questo pranzo segreto, i giornalisti sono un po' sguinzagliati in giro per Bruxelles a vedere dove si possono trovare Nick Farage, il grande vincitore in Inghilterra del movimento indipendentista e profondamente euroscettico, che incontra Grillo. E invece Farage aveva detto che era, appunto, l'aveva preannunciato ieri, che era disponibile a incontrare Grillo, mentre non vuole allearsi con Le Pen. Quindi qui abbiamo un altro tipo di raggruppamento e un altro ancora sarà quello dei conservatori britannici, che rischiano di rimanere un po' col cerino in mano perché non si alleeranno né con Farage né con Le Pen, e quindi sono un po' isolati. Questo vedremo. Un'unione della galassia molto complessa, molto importante, sì. Però formare un raggruppamento di 7 paesi con 25 almeno europarlamentari, perché se no si rischia di non contare praticamente nulla, soprattutto nel processo di codecisione, che è quello più importante del Parlamento. Allora vedremo che cosa succederà su questo fronte e anche se Grillo sarà in grado di sciogliere questo nodo, perché come sapete il Movimento 5 Stelle non ha stabilito per il momento, insomma, di non avere, per così dire, alleati all'interno del Parlamento europeo. Magari anche di questo parleremo più avanti col vicepresidente della Camera e del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Altra questione europea in ballo in queste ore è la questione del fatto che oggi scade quello che potremmo definire l'ultimatum della Corte di Giustizia europea sul tema, della Corte europea dei diritti dell'uomo sul tema del sovraffollamento delle carceri. Una decisione definitiva dovrebbe arrivare entro la settimana prossima. Ci sono le parole del ministro della giustizia Orlando, dice: non ho una contrarietà ideologica ad un provvedimento di clemenza, ma credo che una discussione su questo aspetto possa distogliere l'attenzione da quello che si può fare. A proposito di chi già ci scrive su questo, diciamo che ne parliamo nella seconda parte della trasmissione e lo faremo col segretario generale del SAPPE, il sindacato più rappresentativo della polizia penitenziaria. A proposito dei risultati delle elezioni europee, discussione aperta anche dentro Forza Italia. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, è così. Berlusconi infatti riunisce i big del partito alle 14.30, un appuntamento allargato anche ai coordinatori regionali per analizzare il deludente risultato delle europee, quel 16% ottenuto domenica. Un Berlusconi che viene descritto come sempre più irritato per le tensioni interne, ma che vorrebbe evitare di trasformare l'incontro di oggi in una resa dei conti. Tanti nodi sul tavolo, c'è il capitolo della leadership. Marina Berlusconi continua a tenersi lontana dalla politica, soprattutto adesso che le elezioni non sembrano all'orizzonte. La mia discesa in campo, avrebbe detto ai collaboratori, non è un'ipotesi attuale. Insomma, l'idea è che non ci saranno passaggi di testimoni immediati, né l'ex cavaliere sembrerebbe intenzionato a cedere ora il timone, anche se sono numerosi gli esponenti del partito a invocare le primarie per una nuova guida. C'è poi il tema delle alleanze, della ricostruzione del centrodestra, sul quale Berlusconi vorrebbe avere un ruolo di primo piano. Si guarda alla Lega ed è lo stesso Giovanni Toti ad annunciare che Forza Italia sosterrà alcuni referendum del Carroccio. Più difficile invece sembra la ricucitura di un dialogo con il nuovo centrodestra di Alfano. E poi le riforme, l'atteggiamento dunque da tenere su quel famoso patto del Nazareno, sulla riforma della legge elettorale. Insomma, tanta carne al fuoco, staremo a vedere che cosa verrà fuori da questo incontro di oggi. A te, Simone. E grazie alla nostra Alessandra Schepisi. Ci sono i dati forniti questa mattina dal ministro dell'interno Angelino Alfano in audizione al comitato Schengen. Lo scorso anno gli arrivi complessivi di migranti hanno toccato quota 43.000, un numero che sarà presto superato quando ancora deve finire il primo semestre del 2014, perché pensate che fino adesso sono sbarcate 40.000 persone. Aldo Dolfini, comandante della nave San Giorgio, la principale unità impiegata nella missione Mare Nostrum, sulla quale, come sapete, si addensano molte polemiche, è intervenuto questa mattina ospite di Alessandro Milan. Ma guardi, quello che le posso dire personalmente è cosa che penso sia vissuta da tutti i membri dell'equipaggio: non è mai così facile rispondere agli ordini. In queste condizioni il coinvolgimento, quello che si vede, la sensazione intima di stare a fare qualcosa di giusto, di veramente giusto, perché salvare vite, strappare vite alla morte, cosa che veramente è successa, ci porta ad agire rispondendo agli ordini veramente con facilità. Per quanto riguarda le polemiche, sono cose che fanno parte del quotidiano, ognuno può pensare la cosa, inquadrarla nella sua ottica. Quello che noi sentiamo di fare, che facciamo e sentiamo, è che facciamo qualche cosa di giusto. Personalmente non penso si possa pensare di lasciare in mare qualcuno sapendo che da là qualche ora può essere morto, cosa di cui abbiamo avuto certezza durante alcuni eventi SAR, dove veramente siamo riusciti a fare l'intervento in condizioni meteo marittime particolarmente difficile. Addirittura siamo stati obbligati in una situazione a portare il barcone all'interno della nave per poter salvare i migranti. Questo per darvi un'idea delle difficoltà che certe volte si affrontano, e la conferma che se non fossimo intervenuti tutte quelle persone sarebbero sicuramente morte, sicuramente morte. Personalmente non penso si possa voltare la testa dall'altra parte. E parliamo adesso di arrivi in Italia decisamente più felici. Silvia Della Monica, Presidente della Commissione Adozioni Internazionali, buongiorno. Buongiorno a voi. Sentiamo la cronaca di questa mattina e poi parliamo con lei. Hanno abbracciato i genitori, i 31 bambini congolesi adottati da famiglie italiane. L'Airbus della Presidenza del Consiglio proveniente da Kinshasa è atterrato a Ciampino alle 10.35. Ad accompagnare i bambini, in rappresentanza del governo, Maria Elena Boschi, Ministro per le Riforme Istituzionali. Il viaggio è andato bene, i bambini sono stati bravissimi e ora pensiamo a loro, pensiamo a fare festa con le loro famiglie. È stato un lavoro impegnativo da parte di Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio ha avuto fin dall'inizio a cuore questa vicenda, quindi un ringraziamento vanno ai funzionari di Palazzo Chigi, ai funzionari della Farnesina, tutto il lavoro che è stato fatto. Sono 24 le famiglie italiane che hanno ritrovato i 31 piccoli congolesi. Si conclude così una vicenda iniziata a settembre dello scorso anno con il mancato nulla osta rilasciato dal governo del Congo a causa di procedure irregolari che tuttavia non riguardavano l'Italia. Giuseppe Carlomagno, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Allora, questo è il racconto della mattinata. Silvia Della Monica, c'è un flash di agenzia di pochi istanti fa, ormai le notizie le prendiamo da Twitter, e in questo caso il tweet del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che dice benvenuti a casa, ora con la riforma del terzo settore ancora più attenzione alle adozioni internazionali. Vorrei capire da lei, innanzitutto stamattina lei era là e insomma immagino l'emozione, le immagini le abbiamo viste. Devo dire francamente anche da giornalista un po' mi sono emozionato anch'io. Guardi, una grandissima emozione, ma io ho fatto il viaggio con i bambini dal Congo e quindi sono stata particolarmente felice di fare questo viaggio, credo che fosse uno dei viaggi più belli della mia vita, perché portare a casa questi bambini e dar loro la famiglia mi credo che sia una cosa importantissima. E come ha detto giustamente il ministro Boschi è un momento di grande gioia per tutti. Quindi insomma assistito anche all'arrivo, è stata là, come si può modificare questo regime, insomma sa, qua siamo sul tweet e quindi evidentemente non c'è nemmeno spazio, però vorrei capire da lei che se ne occupa più o meno quotidianamente su quali sono come dire, i blocchi sui quali si può intervenire. Innanzitutto bisogna cercare di applicare effettivamente le procedure in maniera più veloce e noi abbiamo una parte delle adozioni internazionali che coincide anche con quelle nazionali e quindi dobbiamo fare di tutto perché gli attori in sede nazionale operino congiuntamente in maniera più veloce e quindi una semplificazione sotto questo profilo delle procedure senza rinunciare alle garanzie della giurisdizione. E poi intervenire con maggiore incisività con accordi con i paesi stranieri, perché noi poi facciamo il conto con la loro legislazione e quindi dobbiamo cercare di concludere accordi finalizzati a un regime delle adozioni che ci consenta di portare in Italia più velocemente i bambini. Però teniamo conto e facciamo conto, dobbiamo fare agio anche sulle legislazioni straniere. Brevemente, quante famiglie ci sono, delle quali voi siete a conoscenza, che sono in una situazione di blocco simile, non necessariamente uguale dal punto di vista legale, di quelle, una situazione simile a quella nella quale si sono trovate le famiglie? Mi permetta di dire una cosa, come le dicevo io ho fatto questo viaggio, ho avuto il piacere di vedere i bambini già direttamente a Kinshasa e poi di vederli in Italia. Credo che innanzitutto oggi dobbiamo dire che è un momento di grande gioia. Da qui è un punto di partenza. Dire quante famiglie si trovano in una situazione analoga è molto difficile perché la legislazione congolese non conosce effettivamente la definitività delle sentenze e per il momento il governo congolese non ha tolto il blocco delle adozioni che persisterà quindi fino a settembre 2020. No, dico mi scusi Della Monica, dicevo a livello mondiale, non parlavo solamente del Congo. Le situazioni a livello mondiale sono un po' difficili da definire in due battute. Certamente noi abbiamo delle situazioni di crisi che sono sotto gli occhi di tutti, basta ricordare ciò che è avvenuto per la Bielorussia, ciò che è avvenuto in Ucraina e insomma dobbiamo tener conto anche delle evoluzioni di politiche di determinati paesi e dei rapporti internazionali che si vengono a creare e quindi di volta in volta noi dobbiamo cercare di trattare la materia delle adozioni internazionali esclusivamente sotto il profilo dei diritti umani e cercare di fare breccia anche quando ci sono delle situazioni difficilissime. La ringrazio, grazie Silvia Della Monica, Presidente della Commissione Adozioni Internazionali Traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. In Europa si continua a trattare sulla Commissione europea, l'Italia vuole posti chiave, Grillo e Salvini si incontrano sull'aereo per Bruxelles, il primo incontro a Farage, il secondo a pranzo con la Le Pen. 100.000 giovani italiani hanno lasciato il paese in 5 anni, riferisce l'Istat nel rapporto annuale, aumentano le famiglie senza reddito. Appena si veniva eletti si entrava nel sistema, a parlare il boss dei casalesi Antonio Iovine in un interrogatorio, c'erano soldi per tutti, aggiunge, anche per i sindaci. Cellino ha venduto, il Cagliari sarà di proprietà di un gruppo americano che chiede rassicurazioni, interessato tanto al club quanto allo stadio. Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno a voi. E bentornato ai nostri microfoni. Grazie. Beppe Grillo deve lasciare la scena politica? Ma io credo che questa sia una cosa priva di fondamento, soprattutto perché questo è un movimento in cui si vince insieme e si prendono anche magari, si prende atto dei risultati insieme, si perde insieme. Quindi adesso in questo momento l'unica cosa che dobbiamo fare è continuare a rappresentare prima di tutto, portare la voce nelle istituzioni europee di quei 6 milioni di italiani e poi mandare avanti le proposte che comunque sono state legittimate da un voto popolare che ci fa essere la seconda forza politica del paese. Sto parlando dell'abolizione delle pensioni d'oro e trasferirle ai pensionati con la minima, di cercare di aiutare gli imprenditori in difficoltà, aumentare il contatto col territorio dove ce n'è bisogno. Io ho avuto delle ottime risposte nel sud del Movimento 5 Stelle, in comuni in cui siamo andati fortissimi, terre di camorra e terre di mafia, dove il movimento è andato molto forte, a Bagherini siamo al ballottaggio che è una terra molto complicata, quindi su questo ci sono molti dati incoraggianti. Certo, se fai una campagna elettorale in cui dici vinciamo noi e poi vincono loro, è chiaro che prendi atto del risultato, ma questo non ci scoraggia. Questo lo dico, Di Maio, la domanda non era casuale, perché come sai è stato lo stesso Grillo a dire se perdiamo lascio, insomma, posto che uno si possa dimettere da, come dite voi, megafono di un movimento, perché non è che non è una carica politica. Non lo so da cosa si dovrebbe dimettere in questo momento Grillo. È chiaro che quando si hanno dei risultati in cui c'è un vincitore e c'è uno che non ha vinto, è chiaro che ti prendi la responsabilità politica, ma Beppe Grillo non è nelle istituzioni, a garanzia del movimento non è mai stato eletto, perché era il patto tra chi entrava nel movimento e Grillo, che non portavamo voti a nessuno, ma ognuno ci metteva la faccia per primo, e tra l'altro è stato il megafono di questo movimento ed è una persona che sicuramente impara anche dagli errori. Quindi io credo che in questo momento ci sia da guardare all'Europa, si sta creando un gruppo parlamentare, stiamo provando a creare un gruppo parlamentare nel Parlamento europeo, le persone con non chi ipotizzate di andare, con chi ipotizzate di andare in Europa? Farage è un'ipotesi. In questo momento sì, ovviamente dobbiamo chiarirci sugli obiettivi, i gruppi parlamentari in Europa si creano intorno a programmi e vengono modificati in maniera molto stringente questi programmi a garanzia della formazione del gruppo, è un meccanismo molto interessante che evita il popolarsi, il proliferare di gruppi parlamentari come nel si creano per ogni cosa, invece in Europa c'è una certa serietà, noi stiamo andando lì, Grillo incontrerà qualcun altro degli altri gruppi, poi i nostri parlamentari europei incontreranno gli altri parlamentari europei degli altri gruppi, si creerà una coalizione che cerca di dire all'Europa o ci serve a qualcosa, devi dare una mano agli italiani, devi dare una mano ai problemi principali dell'Italia. Avete trasmesso troppa rabbia secondo lei, troppa, come dire, spaventando una parte degli italiani evidentemente? Ma io questo non lo so, perché se c'è una cosa chiara da tutta questa storia delle elezioni europee è che i sondaggisti e gli analisti ci prendono pochissimo, quindi io non voglio impiccarmi su analisi del voto, analisi dei numeri. Io credo che dobbiamo andare avanti magari provando a comunicare ad una parte del paese a cui non siamo arrivati nel senso che abbiamo convinti Aspetti che la stiamo perdendo, Di Maio, vediamo se riusciamo a sentirla per un'ultima domanda. Secondo lei ci sono stati brogli, perché un po' della vostra base, leggendo quello che scrivono su internet e anche sul blog, sembra convinta di questo? No, io non credo nei brogli, sicuramente ci sono stati degli errori ai seggi elettorali, io li seguo le elezioni, sono stato scrutatore anche in passato, so che ci sono una serie di presidenti che non conoscono neanche i regolamenti bene e quindi possono fare degli errori, però da qui a dire brogli io credo che questa sia una cosa da superare. Io credo soltanto che dobbiamo spiegare alle persone che noi non siamo assolutamente un movimento pericoloso, al massimo ansioso di provare a cambiare questo paese il prima possibile, prima che vada verso il baratro. Tutto qui. Però qualcosa da cambiare nel movimento c'è, insomma, perché che questo sia un movimento che ha 3 anni e che sicuramente, come abbiamo sempre detto, non è perfetto, lo miglioreremo anche prendendo spunto dai consigli che stanno venendo dai cittadini, dagli elettori che ci hanno votato e quelli che non ci hanno votato, e lo miglioreremo. Questi i partiti con cui noi ci scontriamo, se così si può dire, o ci confrontiamo a livello elettorale, sono partiti che hanno storie ventennali, sì. Noi esistiamo da 3 anni, abbiamo tanta strada da fare, ma la faremo con onestà e soprattutto non barattando l'onestà intellettuale. Molto brevemente, un po' di autocritica però ci vorrà secondo lei? Ma ci sarà, senz'altro ci sarà. Grazie a Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle. Buona giornata. Donato Capece, segretario del SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Buongiorno, sì, e bentornato. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, l'abbiamo chiamata perché oggi, come già dicevamo nei nostri titoli, scade il termine imposto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per mettere mano al sovraffollamento delle carceri, quantomeno per esaminare il piano. In realtà la decisione definitiva arriverà tra 4-5 giorni, probabilmente la settimana prossima, e però il tema resta in campo. Tant'è vero che pochi istanti fa il ministro della giustizia Orlando ha detto insomma, non ho contrarietà ideologica a un provvedimento di clemenza, ma credo che una discussione possa, su questo possa distogliere l'attenzione da quello che si può fare. Vi abbiamo voluti chiamare perché naturalmente, dato il ruolo che svolgete all'interno delle carceri, siete direttamente coinvolti. Non molti lo sanno, ci sono molti suicidi di detenuti a causa delle condizioni delle carceri, ma dall'inizio dell'anno si sono tolti la vita anche 5 agenti di polizia penitenziaria, appunto. E io vorrei sapere da lei come se ne esce, qual è la vostra visione e la vostra posizione. Ma a mio avviso, ad avviso del sindacato che rappresento, devo dire che purtroppo è stato fatto poco in termini di deflazionamento degli istituti. Seppur 3 provvedimenti di 3 ministri diversi abbiano tentato di abbassare il numero dei detenuti in carcere, l'ultimo provvedimento è quello del ministro Cancellieri, in pratica da 66.000 detenuti oggi siamo a 59.000. Da una ricerca fatta al Dipartimento ho notato che mentre a gennaio erano circa 20.000 detenuti che erano ristretti e gli veniva garantito meno di 3 metri quadrati ciascuno, oggi, dopo il provvedimento della Cancellieri che ha permesso meno custodia cautelare in carcere, i numeri, diciamo, che corrispondono sono quasi a zero. Il primo obiettivo è stato centrato, comunque rimangono 59.000 detenuti, comunque non penso che si possa risolvere il problema del sovraffollamento con dei provvedimenti di clemenza, né indulto e né amnistia, a meno che a questi provvedimenti non seguono anche delle riforme strutturali del pianeta carcere. Quindi non siete, capisce, non è che siete pregiudizialmente contrari a un provvedimento di clemenza, posto che sia accompagnato da appunto da qualcosa di strutturale. Certo, anche perché nel 2006 il Parlamento votò quel provvedimento che mise fuori 27.000 detenuti, ma noi l'anno successivo, il 2007, dopo circa un anno, abbiamo avuto di nuovo il sovraffollamento penitenziario, cioè tutti i 27.000 che sono usciti sono di nuovo tutti quanti rientrati in carcere. Allora, o si crea un carcere diverso da quello esistente, cioè noi non chiediamo il carcere contenitore, carcere di scarica, chiediamo un carcere dove, soprattutto legato a quei reati che crea l'allarme sociale, la cui pena superi i 3 anni, e quindi quelli vanno custoditi in carcere e attraverso un percorso di abilitazione restituirli poi alla società. Tutto il resto deve rimanere sul territorio sotto il controllo del servizio sociale, ma soprattutto delle forze di polizia. E qui direi, predisponiamo l'aliquota del personale di polizia penitenziaria preparato a fare questi controlli e facciamo che il detenuto, ne abbiamo circa 100.000 oggi detenuti che sono sul territorio a far scontare, diciamo, pene alternative. Facciamo in maniera che il personale di polizia penitenziaria, chiaramente aumentando l'organico di questi uomini, possa sul territorio in maniera invisibile controllare e assicurare che scontino una pena attraverso i lavori di pubblica utilità, per esempio l'uso del braccialetto elettronico, strumento che costato per noti fatti attraverso i contratti tra Telecom, Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia, costa enormemente e purtroppo non viene sottovalutato, non viene impiegato. Per quanto riguarda la questione sovraffollamento, i decessi legati ai detenuti in carcere, questo trova giustificazione, anche se non è giustificabile da un punto di vista umano. Chiaro. Tanti detenuti tutti i giorni attraverso autolesionismi, attraverso tentativi di suicidio, e devo dire grazie a noi polizia penitenziaria se tanti non riescono a mettere in atto il suicidio. Però devo dire anche che siamo un corpo di polizia abbandonati a noi stessi. Il capo dipartimento, l'attuale presidente Tamburrino, e i suoi vertici, i suoi collaboratori, dottor Pagano, non hanno fatto niente, non fanno niente per cercare di star vicino alla polizia penitenziaria. Parla di stress da lavoro correlato, ecco che inevitabilmente colpisce la polizia penitenziaria. Capece, in 10 secondi, secondo lei si deve dimettere il capo del DAP? Secondo me sì, l'avrebbe dovuto fare già qualche mese fa. Io spero che il ministro non lo riconfermi, perché non lo merita, non ha fatto niente per risolvere il problema del sovraffollamento e soprattutto per evitare che la polizia penitenziaria naufragasse e venisse abbandonata a se stessa. Grazie Capece, segretario del SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Pausa e poi la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. 100.000 giovani italiani hanno lasciato il paese in 5 anni, riferisce l'Istat nel rapporto annuale. In Europa si continua a trattare sulla Commissione europea, l'Italia vuole posti chiave, Grillo e Salvini si incontrano sull'aereo per Bruxelles. Intanto nel Movimento 5 Stelle si dibatte sul calo di consensi, Pizzarotti parla di autocritica, il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, intervenuto ad Effetto Giorno, dice non si parli di dimissioni di Grillo. Dopo la condanna di un anno fa scade oggi il termine imposto dalla Corte di Strasburgo per mettere mano al sovraffollamento delle carceri. È il momento della borsa. Borse in diretta. Giornata piuttosto buona anche oggi, più 0,64% il FTSE MIB, più 0,62% il FTSE All Share, positiva mediamente anche il resto d'Europa. Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Come mai le cose vanno bene? Va bene, Milano sono al palo, diciamo poco variate le altre borse, Milano ancora una volta la migliore, ancora al traino del risultato elettorale, anche se gli operatori parlano di un effetto in via di esaurimento, perché adesso l'attenzione si rivolgerà a quello che farà il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi la prossima settimana. Il FTSE MIB comunque ha allungato il passo dopo il buon esito dell'asta dei bot a 6 mesi col Tesoro, che ha collocato titoli per 6,5 miliardi con rendimenti lordi scesi sotto la soglia dello 0,5%. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore, a Isabella Tasso. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E voglio ritornare adesso sulla vicenda dei bambini ritornati, per così dire, o meglio, arrivati per la prima volta in Italia dal Congo dalle loro famiglie adottive. Perché c'è un ascoltatore che ci scrive questa frase, devo dire la verità, inizialmente ho avuto questo pensiero anch'io, ma perché andare in Congo a prendere i bambini, non si possono adottare quelli italiani? Devo dire che a fronte dell'emozione di vedere quelle immagini sotto l'aereo, questo pensiero, questo retropensiero che c'era, l'ho ritenuto sbagliato e mi sono in parte anche sentito in colpa. Lia Quartapelle, deputata del PD in Commissione Esteri, e è una delle persone che ha seguito di più la vicenda ed era oggi naturalmente a Ciampino ad attendere quell'aereo. Buongiorno. Buongiorno. Però io una risposta all'ascoltatore la vorrei e la vorrei far dare appunto a questo punto da una, come dire, da una policy maker, per così dire. Ma è difficile dare una risposta che non sia una risposta di carattere individuale, nel senso che poi sono quella di adottare i paesi dove si adotta sono delle scelte di carattere individuale, quindi non posso rispondere per le famiglie. Certamente possono rispondere gli abbracci, i sorrisi e la grandissima emozione che abbiamo visto oggi, come diceva anche lei. Sono dei bambini che sono stati attesi e che sono finalmente arrivati. Quando, in che modo? Uno non sceglie i propri figli, arrivano. E così è successo anche oggi per queste 24 famiglie. Senta, ci spiega un po' meglio come si è sbloccata la situazione? Ma c'è stato un grandissimo lavoro e bisogna assolutamente ringraziare sia dei funzionari del Ministero degli Esteri che dei funzionari della Presidenza del Consiglio e della Commissione delle Adozioni Internazionali, che è un lavoro che è proseguito in maniera davvero infaticabile e le persone coinvolte hanno dato molto di più di quello che il loro mandato di lavoro richiedeva, rispondendo a telefonate, mail, costruendo un rapporto con le famiglie in tutti questi mesi, ed è stato poi un grande lavoro di carattere diplomatico fatto soprattutto dal Ministero degli Affari Esteri insieme alle autorità congolesi. Lavoro che evidentemente, ne parlavamo prima con la Presidente della Commissione sulle adozioni internazionali, dovrà proseguire, cioè non è l'unico caso e non è l'unico caso nel pianeta tra l'altro. Sì, è un lavoro che dovrà proseguire sia rispetto alla Repubblica Democratica del Congo sia rispetto a una serie di altri paesi dove ci sono situazioni di nostri connazionali che sono nel processo di adottare dei bambini e che hanno delle difficoltà. Certamente il risultato di oggi è una grandissima gioia, ma per tutti noi, soprattutto per i funzionari, per le responsabilità politiche coinvolte, è anche uno stimolo forte a prenderci cura con collaborazione, riservo e entusiasmo di tutte queste situazioni, che sono delle situazioni complicate, ma se c'è la volontà politica possono essere sciolte. Grazie a Lia Quartapelle, deputata del PD in commissione estere, magari su queste cose torneremo. 40 anni fa, il 28 maggio del 74, una bomba di alto potenziale piazzata in un cestino dei rifiuti in Piazza della Loggia durante una manifestazione provocava la morte di 8 persone, un centinaio di feriti. 40 anni dopo un libro ricostruisce in modo preciso e meticoloso il retroscena della strage di Brescia. Daniele Biacchessi. Pino Casamassima, scrittore, ha fatto uscire proprio in questi giorni un libro, Sperline Kupfer, Piazza Loggia. Quali sono le cose nuove che aggiungi? C'è stata una nuova testimonianza che io ho trovato addirittura casualmente, una ragazza che all'epoca aveva 16 anni, un'amica mia di vecchissima data, che mi ha raccontato come un pomeriggio a Brescia, insieme con Silvio Ferrari, che frequentava, che conosceva, avessero incontrato Ermanno Buzzi e Silvio si fosse fermato a parlare con Buzzi. Questa è una testimonianza importantissima perché ha dimostrato che i due si conoscevano e quindi ciò ha fatto sì che si aprisse un nuovo filone di inchiesta in relazione alla morte di Silvio Ferrari. Io per tutto il libro peraltro sostengo la tesi che Piazza della Loggia passa attraverso Piazza del Mercato, laddove per appunto Silvio Ferrari saltò per aria con la sua motoretta, e questo è uno dei punti fondamentali del libro. Così dunque sulla strage di Piazza della Loggia. Noi chiudiamo questa parte parlando di calcio e di un passaggio di proprietà. Ora è fatta per davvero. Dopo 22 anni di gestione per circa 80 milioni di euro, Massimo Cellino ha venduto il Cagliari agli americani. Decisiva una lunga riunione a Miami. Tramonta a questo punto la trattativa con la Fluorsid di Tommaso Giulini, azienda con sede alle porte del capoluogo sardo. Ma ora il nodo dell'affare si sposta sul problema stadio, che diventa una priorità di Luca Silvestrone, il capo cordata della nuova proprietà. La disponibilità di Cellino a rivedere il tutto in caso di intoppi burocratici proprio sullo stadio nasce da una precisa richiesta degli americani. Finora il nome del gruppo a stelle strisce non è mai trapelato. L'unico rappresentante uscito allo scoperto è l'archistar statunitense Dan Mays, che si occuperà proprio della progettazione del nuovo impianto del Sant'Elia. Cellino ha venduto non solo il club ma anche il centro sportivo di Assemini e i terreni di Elmas, dove sarebbe dovuto sorgere lo stadio privato, ma non la sede attuale del Cagliari Calcio, che l'ormai ex presidente rossoblù, che è anche proprietario del club inglese del Leeds, su cui ora si concentrerà, considera un ricordo personale ed affettivo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. I first held Chelsea in my arms in the hospital in Little Rock. I knew my mission in life was to give her every opportunity to thrive. Hillary Clinton che legge un brano del suo nuovo libro e che siamo in grado di proporvi qui a Radio 24 su America 24 come un'anticipazione esclusiva in Italia. Nel momento in cui ho stretto Chelsea, dice Hillary, tra le mie braccia nell'ospedale di Little Rock, ho capito che la mia missione